Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo in merito alla polemica che si è accesa nel mondo politico sulla proposta di portare a 65 anni l'età della pensione di vecchiaia per le donne. Esiste un grande schieramento che va dalla Lega al PD, che vorrebbe questa scelta volontaria. Ma non è una cosa sensata. Già oggi, per quelle che vogliono, c'è una possibilità assoluta di rimanere in servizio fino a 65 anni, maturando degli ulteriori benefici pensionistici, e nessuna può essere cacciata. Chi pone il dibattito sulla volontarietà dice una cosa fuorviante. Vorrei far notare che volontarietà significa mantenere le cose come stanno, ed è la stessa cosa che essere contrari, posizione assai più trasparente. Purtroppo il dibattito politico in Italia lo si fa spesso sulla disinformazione e sugli equivoci. Dario. Ritengo non sia corretto dare seguito a tutta una serie di aiuti indirizzati a chi non può più reggere il peso di un mutuo per l'acquisto di una casa o di un appartamento. Acquisto effettuato spesso a cuor leggero, nella convinzione di trovarsi di fronte a un asset indefinitamente crescente. Così come non è stato corretto permettere la speculazione immobiliare. Tutto ciò che ne è scaturito era prevedibile. Non voglio vedere il fallimento delle famiglie italiane ed è proprio per questo che voglio scongiurare aiuti al sistema e alla speculazione creatasi attorno agli immobili, perché finirebbe solo per peggiorare le cose, allungando l'agonia del sistema, e gli effetti nefasti della crisi, ancora una volta, andrebbero a favore degli speculatori. Mi spiego, occorre far uscire dagli immobili l'enorme massa di capitali ivi bloccata, massa di capitali che impedisce attraverso il loro finanziamento perenne la ripresa economica. Bisogna far confluire sul mercato tutti i beni immobili, ai prezzi che si verranno a formare. Ognuno dovrà subire delle perdite, ma rientrerà in possesso dei capitali e verranno liberate enormi risorse, ora destinate al rimborso dei mutui. Sarà la chiave della ripresa, senza la quale non sarà pensabile una pulizia del sistema. L'aiutare il castello di carte che si è creato, al contrario, non favorirà che la speculazione e allungherà i termini della crisi, peggiorandone gli effetti. Come ogni asset, anche quello immobiliare deve poter trovare il suo equilibrio. Inutile sostenere i prezzi degli immobili. Questi crolleranno comunque. Meglio permetterne la realizzazione, pur incamerando delle perdite. La massa di capitali che confluirà nei bilanci delle famiglie permetterà la ripresa dei consumi e degli investimenti, rimettendo in moto il sistema. Il sistema bancario sarà costretto a venire allo scoperto, liberandosi della carta creata sulla speculazione immobiliare. Qualche istituto fallirà, altri si salveranno, l'economia reale ne trarrà solo vantaggio. L'errore di perpetuare valori immobiliari irreali, nella maggior parte dei casi, blocca il sistema, che non riesce a trovare equilibrio. Così la speculazione la fa da padrona, con enormi costi sociali. Quindi lasciamo che il mercato si ripulisca dalle tossine di chi ha voluto distorcerlo a fini speculativi. Alex. In molti campi dello scibile umano tutte le idee hanno diritto di asilo. Ciò vale anche per il tema dell'energia, tanto dibattuto da tempo. Lì anche i più sprovveduti si ritengono legittimati a propinare ricette in grado di far quadrare il cerchio. Io, che non sono un genio, né un fisico nucleare esperto di centrali della quarta generazione, mi autoproclamo uno sprovveduto perché sposo le seguenti teorie. L'energia solare è quella che irradiano le persone ottimiste. L'energia eolica è quella prodotta dai moderni mulini a vento, mossi da chi si dà troppe arie. L'energia idroelettrica è quella che fa acqua da tutte le parti. L'energia termica è quella che ci consuma quando abbiamo la febbre. L'energia nucleare è quella che riceve il nostro cervello quando riesce a cogliere il nucleo, ossia il nocciolo dei vari problemi. L'energia rinnovabile e inesauribile esiste, ed è in ciascuno di noi, a patto che sappiamo rimuovere il magma dell'egocentro. Come? Semplice. Basta mettere in moto l'autoironia, l'unica auto che funziona ad energia endogena. Senza dispendio di carburante alcuno e senza impoverire le riserve del pianeta. Anzi, è di più. Emana cariche positive anche all'esterno. E più la si usa, più se ne aumenta la resa. Mi dia pure dello sprovveduto anche lei, signor direttore. Non mi offendo. Ma dopo avermi eventualmente apostrofato con l'epiteto, mi regala un riscaldante sorriso in questo inverno che sa di inverno? Costante. seguito con interesse nei giorni scorsi il dibattito sul nucleare. A me pare un fatto acclarato che la pubblica amministrazione abbia perso quasi del tutto negli ultimi 20 anni la capacità e la serenità necessarie per condurre progetti delicati, complicati e costosi. Non c'è alcuna attitudine ai controlli, alle valutazioni, alle scelte basate sulle oggettive capacità. Sono a testimoniarlo i clamorosi concorsi truccati, i ministri abilitati con esami facili e che non se ne vergognano, i partiti onnivori che usano il loro potere per scegliere in base alle clientele invece che per il bene pubblico, la disinvoltura con cui si gestiscono gli appalti e i rapporti tra controllore e controllato. Il nucleare presuppone grande rigore tecnico, osservanza pedissequa delle procedure, controlli severi e inesorabili, indipendenza tra controllato e controllore, grande trasparenza, visioni lungimiranti. Insomma, il predominio della tecnica sulla politica al momento del fare. L'indipendenza tra politica e amministrazione. Politica che, una volta effettuate le scelte di base, dovrebbe ritirarsi e non occuparsene più. Io ce la vedo l'Italia della grande siderurgia e della tecnologia a fare nucleare. Ma mi preoccupa la politica, il malaffare, l'etica bassissima dello Stato. Abbiamo tutti visto come lievitano i costi, come lievitano i tempi, come vengono gestiti i conflitti di interessi, come si spendono i soldi in cose inutili, non volute, non necessarie. Ecco, la scelta nucleare dovrebbe essere accompagnata da una radicale svolta nel costume dell'amministrazione pubblica. Allora i benefici si moltiplicherebbero, ben oltre la sola questione energetica. Alessandro. Il vero problema degli eccessivi scioperi nei trasporti è che, così come è formulata la legge in vigore, si ottiene di burocratizzarli, con molte procedure preliminari e di attuazione, ma non di frenarli o disincentivarli, perché né alle aziende né ai lavoratori essi sono mai costati alcunché di sostanziale. Infatti, le aziende, che sono tenute a servire le cosiddette fasce orarie di rispetto, finiscono con l'incassare ugualmente i titoli di viaggio e i contributi d'esercizio regionali come nei giorni di lavoro, e gli scioperanti finiscono comunque con l'essere pagati perché tra uscite e rientri nei depositi, tempi supplementari, rifornimenti e operazioni varie, prolungamenti di tempi per traffico, completano comunque l'orario giornaliero. Chi paga davvero sono i cittadini. Il mondo anglosassone si comporta in pratica esattamente al contrario. Gli scioperi nei servizi pubblici sono rari perché costano terribilmente alle aziende e ai lavoratori, intesi come sindacati. Essi sono sempre ad oltranza. Non si riparte se non c'è un accordo, e non a spizzichini come da noi. Le aziende finiscono subito sotto accusa, molti dirigenti perdono il posto, e le parti sono quindi spinte a trovare rapidamente un accordo e ad aggiornarlo poi alla sua scadenza. Vorrei che la nuova legge alleggerisse perlomeno i disagi connessi allo sciopero, prevedendo i seguenti obblighi. Per il lavoratore, dichiarare per iscritto, con congruo anticipo, la sua adesione o meno allo sciopero proclamato, con dure penali in caso di difformità successiva di comportamento e, in caso di non adesione, l'accettazione obbligata di una ragionevole modifica del suo turno lavorativo per il periodo di sciopero. Per l'azienda, la stesura e la divulgazione preventiva di ben precisi programmi d'esercizio ridotti rispetto alle percorrenze abituali, in proporzione alle adesioni allo sciopero, in modo da poter servire comunque le linee a più forte domanda, rinunciando ad altre meno importanti. Per gli enti concedenti, regioni, province e comuni, sospendere proporzionalmente i contributi per la quota di esercizio non fornita per sciopero, pretendere il ristorno ai viaggiatori delle quote biglietti non utilizzati per sciopero. Giorgio. Alcuni giorni fa l'ospite di una vostra trasmissione contestava la costruzione del ponte sullo stretto, asserendo che non è convincente dato che i trasporti si sono ormai spostati sulle vie del mare perché più economiche e convenienti. Vorrei informarlo che i trasporti sullo stretto, sia su gomma che su ferro, non si sono spostati perché più economiche e convenienti le vie del mare, ma solo perché costretti dai lavori infiniti della A3. È praticamente impossibile viaggiare, in particolare con i mezzi pesanti, e non parliamo dei treni merce, visto lo stato in cui sono ridotte le linee ferrate. Le opportunità, a mio avviso, non devono essere vincolate dalla mancanza di alternative. Il ponte sullo stretto non è solo auspicabile, ma diventa indispensabile per il sistema trasporti nel mezzogiorno tutto, insieme al completo rifacimento della A3 Salerno-Reggio Calabria e a tutte le infrastrutture che ruotano intorno ad esse. Questo grande progetto non solo darà vita a tanti posti di lavoro, ma potrà rappresentare una svolta per i trasporti di tutto il Mezzogiorno. Orazio. Caro direttore, il tunnel sotto la Manica, che unisce un continente come l'Europa ad uno stato importantissimo come la Gran Bretagna, è fallito. Che speranze può avere il ponte sullo stretto? Forse i fichi d'India costeranno meno? Inoltre non dimentichiamo che un pilastro è nella mafia e l'altro è nell'andrangheta. Edoardo. Rispettabile redazione di Radio 24, ho sentito una vostra trasmissione in cui parlavate della proposta da parte del Comune di Milano di sponsorizzare un film su Sergio Segio. Quello che mi sconcerta di tutta la questione è il fatto che, con tutti gli argomenti, diciamo, storici di cui è ricca la nostra nazione, il Comune di Milano si sia orientato proprio su un soggetto così negativo. E qui allargo un po' il discorso. In questi anni ricorrono i 150 anni di importanti avvenimenti storici che si sono svolti durante il Risorgimento italiano, che, seppur tra luci ed ombre, hanno condotto l'Italia a diventare un membro del G8. Ebbene, non ho visto alcuno dei nostri tanto elogiati registi cimentarsi su questo argomento. Mi chiedo per quale motivo. Perché non interessa? Perché non lo conoscono? Perché sarebbe troppo impegnativo? Durante questo momento storico si sono svolte vicende vere che non hanno nulla da invidiare ai migliori romanzi di fantasia. Vicende che, se raccontate con intelligenza, porterebbero sicuramente grossi vantaggi alla nostra cultura ormai in declino. Mi auguro che per il 2011, anno in cui cadranno i 150 anni dell'Unità d'Italia, si possa assistere a qualche interessante iniziativa. Specialisti italiani si sono recati a sistemare il Museo Storico di Baghdad, facendo uno splendido lavoro. Terminato questo, sarebbe bello che si occupassero dei nostri musei, che, tranne alcuni casi d'eccellenza, versano in condizioni di assoluta indifferenza, se non di abbandono, soprattutto quelli che hanno per argomento la storia della nostra nazione. Sappiamo che alcuni musei del Risorgimento sono stati smantellati, altri ridotti, per lasciare spazio a manifestazioni mondane. Anche la nostra storia più recente è un patrimonio importante che, se ben gestito, potrebbe esserci utile in un momento di crisi come quello attuale. Roberto. Caro Roberto, la conoscenza della storia non è mai sufficiente ed è più che giusto quello che lei ci propone. Ridare ossigeno e vitalità a tutte quelle presenze che possono dare soprattutto ai giovani il senso della storia per comprendere meglio anche quello che stiamo vivendo. Di musei in Italia ce ne sono tanti, ma tranne i primi 10 presi d'assalto dai turisti e dalle scolaresche, per la grandissima parte non attirano che poche centinaia di visitatori. Eppure, basterebbe poco, perché anche nel caso dei musei si tratterebbe di fare un po' di marketing, di farli conoscere, di dare risalto a qualche punto di interesse, di concepire percorsi guidati. Conoscere la storia non dovrebbe essere né di destra né di sinistra, dovrebbe essere interesse di tutti, al di là delle parti politiche. I 150 anni dell'Unità d'Italia possono veramente essere così l'occasione per ridare spazio a iniziative che creino interesse verso il nostro passato. Un passato in cui i valori, anche quelli del Risorgimento, vanno riscoperti, anche con senso critico, per imparare a non ripetere gli errori del passato. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.